È talmente pessima la condizione delle italiane, delle donne di questo paese, siamo veramente, abbiamo i record negativi in quasi tutto, per cui insomma mi sembra che abbastanza pochi hanno detto la festa non serve più perché le donne ormai sono arrivate, non hanno bisogno di denunciare le varie malefatte che vengono architettate ai loro danni. Basta dire che dico, 65 anni di pensione slittata a 65 anni è stata in qualche modo confermata proprio come regalo dell'8 marzo, ma non è il solo regalo che ci è arrivato. Ecco, tra l'altro questa è la classica vicenda che dimostra come il governo sia molto sensibile alle normative UE in alcuni casi e poi sia assolutamente incapace di recepirle quando invece riguardano i propri interessi. Sì, non c'è dubbio, ma insomma poi sulla sensibilità del governo alle normative UE avrei qualche dubbio, perché pensiamo per esempio in campo ambientale, stanno scardinando tutto e togliendo anche alcune norme che erano state fatte dal governo precedente proprio per chiudere le procedure di infrazione, quindi non mi sembra che la loro sensibilità sia pari a zero. In queste occasioni si viene sempre fuori di nuovo il tema delle pari opportunità, no? Addirittura dicasteri dedicati a questo, ma secondo te a questo punto, facendo proprio anche un'analisi storica che prescinde anche da questo governo contingente, insomma vedendo un po' quello che è successo negli ultimi anni, ti sembra che sia partito, anche se lentamente, un processo in questa direzione o sono solo palliativi o i classici veli per coprire le pudende? Guarda, io personalmente sono sempre stata a favore degli organismi di parità, perché comunque servono a sollevare il problema, comunque anche il ministro più debole, anche il ministro più diciamo legato al suo governo e quindi senza possibilità di prendere vere importanti iniziative, qualcosa finisce che fa. Pensiamo alla Prestigiacomo, quando era la pari opportunità, bene o male il riequilibrio della rappresentanza l'aveva sollevato, anche se poi non è stato in grado di portarla a termine. Ma poi c'è qualcosa di più: questi organismi di rappresentanza ormai di parità sono diffusissimi in Italia a molti livelli, nelle regioni, nei comuni, nelle piccole strutture, insomma sono diventate veramente una rete di cui magari non si parla molto, ma che costruisce proprio una specie di così, insomma, di rete di protezione per quel che può con le donne. E quest'anno c'è stata veramente una miriade di iniziative, anche organizzate da piccoli comuni, organizzate da consigli di zona, non so, una valanga c'è stata, una valanga rosa potremmo dire, anche se suona così retorico, è un termine che in genere preferisco non usare, per discutere appunto del tema delle donne italiane che sono, fra le più svantaggiate del mondo occidentale. Ma qual è la tua posizione nei confronti della festa? Perché il sospetto è che l'evento, per poi mettere in piedi anche delle iniziative, finisca poi per fagocitare l'impegno progressivo e costante durante gli altri 364 giorni all'anno. Ma guarda, la festa a me piace e trovo che sia comunque un segno anche di vitalità per le donne, di allegria. Quando c'è stata la ripresa di questo 8 marzo, che effettivamente negli anni del femminismo militante era stata un po' cancellata, è stata anche per le donne che non si erano mai occupate di queste cose un po' una sveglia, un po' un dire, ma insomma siamo donne, vediamoci fra noi per cercare di capire che cosa non va. Certo, quando poi la festa diventa Califano che viene a intrattenerci, allora ci piace meno. Certo. Un'ultima domanda: tu sei giornalista, ho sentito dire da più opinionisti che in realtà uno dei settori dove le donne sono riuscite ad essere più presenti è proprio quello del giornalismo, nelle redazioni e tutto quanto. In realtà manca però un direttore importante donna, a meno che non si pensi solamente alle riviste, quelle diciamo di gossip o di costume. Sì, appunto adesso per la verità un direttore donna di un giornale importante, comunque di un giornale nazionale, c'è Concita De Gregorio e dell'Unità, e si vede anche, perché quel giornale adesso può piacere o meno, ma è fatto molto di più nell'ottica anche delle donne, non solo degli uomini, comunque ti dà il senso che i generi sono due. Quanto alla presenza delle donne nel giornalismo, è vero che è aumentata, però come in moltissime altre zone della nostra vita, e le donne stanno nel basso della piramide, sai che noi in genere, noi donne che ci occupiamo di queste cose, cerchiamo di rappresentare la nostra presenza nei luoghi di lavoro, nei luoghi di potere, come una piramide, siamo moltissime alla base, certo. Via via che si va su ce n'è sempre meno, e nel giornalismo devo dire che è uno dei luoghi in cui questo è più marcato, quindi evidentemente è ancora un luogo di vero potere. Ecco, la speranza è che piano piano questa piramide si riesca a risalire. Per il momento noi ti ringraziamo, ti salutiamo ovviamente, ti ringraziamo per questo tuo intervento, in bocca al lupo per la tua attività. Grazie, vi ringrazio e saluto tutti.